miliardi di persone in un viaggio senza fine, l'infinito alla sua voce, perché dentro c'è l'amore. 6 miliardi di preghiere verso l'alto come frecce, e la mia avrà il tuo nome che trafiggerà anche il sole, perché ognuno lascia sempre la sua traccia, chi nel cuore di qualcuno o sulla faccia. Un solo abbraccio, un solo sguardo all'infinito, dove l'amore è grande. Ti porterò per sempre in ogni mia espressione, non sarà mai triste. Un solo istante può durare all'infinito, quando l'amore è grande. Ti resterà per sempre, ti resterà per sempre. Quali sono le promesse che riusciamo a mantenere? Quali sono le speranze riusciresti a immaginare? Che tutta questa gente abbia una storia e un solo viaggio che ci porterà. Un solo abbraccio, un solo sguardo all'infinito, dove l'amore è grande. Ti porterò per sempre in ogni mia espressione, non sarà mai triste. Un solo istante può durare all'infinito, quando l'amore è grande. Ti resterà per sempre, ti resterà per sempre. Un solo sguardo all'infinito, dove l'amore è grande. Ti porterò per sempre in ogni mia espressione, non sarà mai triste. Un solo istante può durare all'infinito, quando l'amore è grande. Ti resterà per sempre, ti resterà per sempre.